Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di due libri molto diversi tra di loro. Un libro sarà di un economista americano, Harry Anschitz, l'economia in una sola lezione, ma lo vedremo dopo. Iniziamo più vicino a noi con il Nord-Est. Buonasera Daniele Marini. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Daniele Marini è autore del libro Innovatori di confine, i percorsi del nuovo Nord-Est, edito da Marsilio ed è in questi giorni in libreria. Allora, i percorsi del nuovo Nord-Est, quando è nato il Nord-Est, Daniele Marini? Diciamo che da un punto di vista mediatico nasce agli inizi degli anni 90, prima si chiamava Triveneto. Nasce all'inizio degli anni 90 quando, dopo Tangentopoli, un'intera classe dirigente locale che aveva anche grosse influenze sul piano nazionale, viene sostanzialmente decapitata, Tangentopoli, e quindi si pone il problema di un territorio che stava crescendo da un punto di vista economico a ritmi molto rilevanti, però non aveva un punto di riferimento nella capitale, a Roma, non era riconosciuta. Ed è qui che, in particolare grazie all'allora direttore del Gazzettino Giorgio Lago, viene definito questo territorio come Nord-Est, come territorio geografico, diciamo così, a nord, ma che guarda molto a est dell'Europa. Quindi è diventato maggiorenne, inventato così come realtà mediatica nel 90, siamo nel 2012, 22 anni, cos'è il nuovo Nord-Est allora? Il nuovo Nord-Est ha delle caratteristiche che non sono più quelle che l'avevano visto crescere originariamente. In particolare segnalerei due aspetti fondamentali dal punto di vista economico. Da un lato la crescita delle medie imprese che hanno radici nei vecchi distretti industriali e che nel tempo sono cresciute e si sono affermate come dei veri e propri drivers dello sviluppo. Questo non è solo un carattere tipico esclusivo del Nord-Est, perché le medie imprese sono molto presenti anche nel Nord-Ovest, ma la tipologia, il modo di relazionarsi con il territorio è da questo punto di vista interessante. Un numero lo dice su tutti. Ogni media impresa nel Nord-Est ha relazioni e rapporti commerciali e produttivi con 274 fornitori, mentre a Nord-Ovest sono 240, sempre elevati, ma qui molto di più, perché c'è una crescita di tipo orizzontale di queste imprese. Quindi c'è una crescita anche molto territoriale. Molto territoriale, e il secondo fenomeno però è che questo territorio, più di altri in Italia, ha una grande vocazione all'export, che è quello che in qualche misura lo salva anche di fronte alla crisi economica attuale, e cioè i processi di internazionalizzazione. Delocalizzazione negli anni 90, internazionalizzazione negli anni 2000, ovvero grande capacità e tentativo di presidiare i nuovi mercati esteri. Quindi un tentativo che ha avuto successo o siamo ancora nel Nord-Est nella transizione all'interno della crisi? Da un lato sicuramente ci sono elementi di successo, perché anche in questi mesi il presidio sui mercati esteri è diventato fondamentale per l'economia di questo territorio. Però il processo di transizione, che è iniziato tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, è tuttora in corso, nel senso che ci sono ancora una serie di aspetti legati soprattutto alla governance del territorio, a un sistema paese anche nordestino in questo senso, che deve fare ancora dei passi in avanti, soprattutto da un punto di vista di, oltre che di governance, anche di rappresentazione. Questo è un territorio che non ha capitali, non ha capitali nel senso di città, di grandi città metropolitane che funzionino da accentratore di risorse e ovviamente anche di capitali. È un sistema diffuso, ma in realtà è una grande metropoli ancora inconsapevole. Che cosa avrebbe bisogno il Nord-Est? Di che cosa avrebbe bisogno il Nord-Est per spiccare ancora una volta il volo come aveva spiccato negli anni 90? Beh, ovviamente ci sono delle condizioni di livello nazionale che devono essere messe a punto, che vanno dal costo del lavoro al fisco, eccetera. Su scala locale, sicuramente questa capacità di progettarsi come un sistema integrato e non come tante singole unità, così come è stato fino adesso. Ecco, in fondo un Nord-Est che c'è allora ancora più come effetto mediatico che non come realtà economico-produttiva. No, direi che come realtà economico-produttiva ha ormai, diciamo, radici solide. Se andiamo indietro nel tempo scopriamo che questa economia affonda ancora negli anni 80 la sua crescita, quindi abbiamo un sistema produttivo fortemente radicato. Il passo avanti che deve essere fatto è quello di fare in modo che queste tante unità produttive si pensino e si progettino in modo più integrato di quanto non è stato fatto finora. Ecco, come questi percorsi si possono essere compiuti? Si trova tutto nel libro. Ringrazio Daniele Marini per essere stato con noi questa sera. Ricordo il titolo: Innovatori di confine, i percorsi del nuovo Nord-Est, 150 pagine, edito da Marsilio. Grazie a Daniele Marini. Dopo aver parlato con Daniele Marini di Nord-Est, parliamo con Filippo Cavazzoni. Buonasera, Cavazzoni. Buonasera. Filippo Cavazzoni, direttore editoriale dell'Istituto Bruno Leoni, e ci parlerà del libro di Henry Hazlitt, un economista americano, un libro degli anni 40 che l'Istituto Bruno Leoni ripropone adesso. Allora, innanzitutto, chi è Hazlitt, Cavazzoni? Il libro di Hazlitt è stato pubblicato nel 1946 negli Stati Uniti ed è stato un caso editoriale perché ha venduto più di 1 milione di copie, quindi nel mondo anglosassone è un libro molto diffuso ed è un testo tra l'altro molto divulgativo come impostazione, perché è improntato proprio a una spiegazione dell'economia. Quindi l'economia in una lezione, questo è il titolo del libro, quindi sì. Una divulgazione un po' controcorrente però anche rispetto a quei tempi in cui le teorie keynesiane andavano già allora alla grande. Certo, infatti è una confutazione per certi versi del keynesismo, quindi è un libro scritto anche poco dopo la Grande Depressione e il massiccio intervento pubblico adottato da Roosevelt con il New Deal, quindi nel libro c'è anche qualche riferimento al New Deal e ovviamente si fanno le pulci alla teoria keynesiana e quindi alla teoria generale che era uscita negli anni 30 di Keynes. Ecco, una teoria che adesso in questa crisi economica viene rivalutata, viene vista come la possibilità di uscita dalla crisi, quindi non è casuale ripubblicare questo libro in questo momento. No, infatti si può dire che i temi trattati nel libro di Hazlitt siano universali, perché nei 24 capitoli che compongono il libro si parla un po' di tutto quello che riguarda l'economia, quindi dall'inflazione al profitto, all'occupazione, alla produttività, quindi sono temi che ritornano sempre, erano presenti nel dibattito economico degli anni 40 e sono presenti anche oggi. Ecco, quindi sono temi appunto di attualità con una formula divulgativa, ma anche con un metodo, mi sembra, diverso da come viene interpretata spesso l'economia, cioè si pensa non solo agli effetti immediati ma anche agli effetti a catena delle scelte, si pensa anche, e Hazlitt mette molto a fuoco appunto il particolare più che la macroeconomia, cioè le scelte individuali, è vero questo? Certo, sì, i due fra i tanti pregi che ha questo libro sono prima di tutto quello di essere un libro molto chiaro che spiega a parole le questioni e le problematiche senza ricorrere a formule, a grafici, ecco, non c'è un grafico, non c'è una formula, la matematica rimane a parte, l'economia spiegata a parole. E poi dall'altro punto di vista, in effetti Hazlitt si concentra molto su quello che viene trascurato, secondo lui, dagli economisti, ovvero dai cattivi economisti, ecco, diciamo così, ovvero gli effetti del medio-lungo periodo che sostanzialmente non vengono spesso considerati quando si pongono in essere delle politiche economiche. Ecco, come si inserisce questo libro, per concludere, Filippo Cavazzoni, nella politica editoriale dell'Istituto Bruno Leoni? Quale altro libro si può ricollegare tra le vostre novità? Sì, beh, diciamo che un libro che abbiamo pubblicato di recente, pochi mesi fa, che anche quello faceva le pulci alla teoria economica keynesiana, si chiama Tutti gli errori di Keynes, che è scritto da un economista vivente americano, Hunter Lewis, e anche quello è un libro molto semplice che aiuta a comprendere dove stanno gli errori nell'interpretazione dei fatti economici. Ecco, grazie mille, ci pare di aver capito che l'Istituto Bruno Leoni qualche atteggiamento anti-keynesiano probabilmente ce l'ha, da think tank liberista come è e vuole essere. Grazie a Filippo Cavazzoni, direttore editoriale dell'Istituto Bruno Leoni, ci ha parlato del libro L'economia in una lezione di Henry Hazlitt, edito appunto da IBL Libri, 180 pagine, 18 euro. Prima abbiamo parlato con Daniele Marini del libro Innovatori di confine, i percorsi del nuovo Nord-Est, edito da Marsilio. Grazie a Filippo Cavazzoni e Daniele Marini, grazie a Peter Bascapè in regia, Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.